later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli sembra regnare una calma sospetta, Cappa e Drago stanno pensando che le ovaiole, che il reparto ovaiole è meglio del reparto l'altro. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Beh, dai però, Cappa, ammetterai che qui, nel settore delle galline ovaiole, l'atmosfera è un po' meno angosciante che in quello dei polli da macello. È come essere in un enorme reparto maternità di un ospedale. Qua ogni mattina arrivano solo buone notizie. Uova, uova e uova. Ah sì, certo, che belle notizie. Uova. Peccato solo che le galline siano tenute prigioniere in batteria. Dai, Drago, questo qui più che un reparto maternità sembra un reparto di sgravamento. Qui tecnicamente le galline producono uova a getto continuo senza mai nemmeno vederle le uova. Quindi figurati. Nessun fiocco rosa, quindi. Ma che, ma nemmeno azzurro. Però c'è una bella musichetta di sottofondo. Sì, è stato studiato che Brian Eno fa produrre più uova, questo si sa. Ah, Brian Eno, eletto musicista del secolo dalle galline? Credevo che fossero i Pink Floyd i preferiti, l'han detto. No, è Brian Eno. Sì, sì, ha anche ritirato il premio, sai, lui non se ne fa sfuggire una di occasione. Senza di me le galline non avrebbero mai saputo chi era Brian Eno, eh? Ah, pollo in sbattimento, merito sì. Tuo. Sì, mi immagino Brian Eno, musicista legato agli anni 70, quindi pane per il tuo becco, no? Beh, certo, Quello è un musicista ideale per fare le uova, Sì, eh? Non per cucinarle o per farle. Beh, magari anche per cucinarle, chi lo sa. Avete mai fritto un uovo ascoltando Another Green World? Frank Delano, the day Pearl Harbor was attacked. Tell me, do you feel so bad while your family's left alone and everyone is sad since you've gone? Just tell me, do you feel so strange? You look around yourself and nobody's like you. 'Cause you're a bird, you are a plane, sad to kind of. What a shame. La fabbrica di polli. Allora, Tarek, Brian Eno è l'argomento della prossima lezione di musica, va bene? Sì. Eravamo arrivati a Progressive, Genesis, Yes e via dicendo. Oltre al Progressive in quegli anni, però, nasceva l'Hard Rock, Non l'Hard Rock, No, anche l'Hard Rock, però io voglio parlare dell'Art Rock. Art come arte, Rock artistico, che nasceva nelle scuole d'arte inglesi, E in una di quelle scuole sono nati i Roxy Music. È scritto Roxy Music bene, Sì, sì. Roxy Music con la Y, Come Roxy Bar, solo che è Roxy Music, Bene, allora. Perché Roxy Music vuol dire rock e sexy music, capito? musica rock episcopale in un certo senso. Bene, allora, nei Roxy Music suonavano due Brian, uno con la Y e uno con la I normale, che erano Brian Ferry e Brian Eno, Questi due non è che si incontravano tanto, non è che si piacessero granché, però sono riusciti a fare due bellissimi dischi insieme, Il primo è titolato Roxy Music e il secondo For Your Pleasure, Uno del 72 e uno del 73. E questi qui, i Roxy Music, si vestivano in modo esagerato, E Brian Eno aveva anche le piume di struzzo in testa. E l'altro con le giacche di pelle, i lustrini, che sembravano dei travestiti. Però erano bravi, La loro musica poi era musica romantica ma anche innovativa, Adesso, sulla base di tutto quello che ti ho insegnato oggi, mi devi cantare Lady Tron di Roxy Music. Oppure Dude Strand. Va bene? E con me, perché non le sai? No. E tu non sai Lady Tron e Dude Strand? No. E adesso è il momento di un'altra musica. La musica percussiva. No. Allora hai già capito che stiamo parlando di roncolate, Allora, di ronca music. Ronca music. No, sono io che sono stanco qua, capito? Io qui ogni lezione partiamo bene e poi alla fine mi devo fare una sudata per riempirti di roncolate, ma io sto qua a parlare di musica con chi? E con un pirla? Fatelo dire. Incazzati perché aboliscono il lici, i napoletani incazzati che aboliscono l'aci, i francesi incazzati perché aboliscono l'oca, le nonnine incazzate perché aboliscono l'ace. C'è in Cina un acronimo perfetto che ha due vocali e una consonante e fa incazzare il mondo tutto intorno. L'acronimo mutante. In the middle of nowhere. Drago. K. Mi scimmiotti? Sì. Perché? Così. Che ora è? Quanti anni hai? Ma che giorno è? Ok. Continua pure a dormire. Ma chi io? Non dormivo mica. Ah no? E cosa facevi? Mi astraevo. Attento a non fare casini come l'altra volta, Drago, che poi finisci a Biandrate, non c'è verso di farti tornare. Non ero a Biandrate, ero a Calolzio Corte. Sì, sai che differenza. Chiediglielo a quelli di Calolzio Corte se per loro non c'è differenza. Ma come si chiamano gli abitanti di Calolzio Corte? Sono i calolziesi. Te li sei fatti tutti amici, tu? Tutti. Aperitivo al bar. Aperitivo. Partite di briscola a partire dalle 2 del pomeriggio e il bicchiere sempre pieno e non certo perché non lo toccassi. Allora buona astrazione. Grazie. E dov'è che vuoi astrarti? A Calolzio Corte. E dove se no? Che cosa succederà adesso? Perché improvvisamente Calolzio Corte diventa la protagonista di questo fine settimana? Abbiate pazienza di aspettare fino a lunedì, quando potrete risintonizzarvi a mezzanotte su Radio 3 per i prossimi enigmatici allestimenti de... La Fabbrica di Polli. La Fabbrica di Polli, un programma di K e Drago, con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Luca Gemma. La Fabbrica di Polli è rai.it, barlumen.com. La Fabbrica di Polli produce, non chiude. Good night, ladies and gentlemen, good night. Barlumen.